Adesso arrivano, piano piano. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Claudia Schiattone, autrice di questo programma, Pietro Lacorte in regia, il nostro Fabio Cantadori nel cuore, perché eravamo abituati ad averlo lì dietro il vetro col suo sorriso, non è più così. Carlo Genta, ciao. Giovanni, buongiorno a tutti. Mai capitata una puntata così difficile in 16 anni, cioè il tempo in cui con Fabio siamo stati colleghi, fino a venerdì pomeriggio quando era qui a fare il programma con noi. Alessandro Vocalelli, ciao. Ciao, buona giornata a voi gli ascoltatori, ciao a tutti. Intanto questo pomeriggio ci ha raccontato che il duello, poi capiremo se per il secondo o per il terzo posto, tra Roma e Napoli va avanti a braccetto, a distanze invariate. Morbido il tocco, è un'invenzione per Diaic, la Roma in vantaggio. Da fuori il destro provato da Paredes, il gol della Roma. Mertens entra in area, Mertens, un gol bellissimo, il Napoli avanti all'ottavo minuto. Hamsik dentro per Gabbiadini, un'altra azione fantastica del Napoli, Manolo Gabbiadini. Però anticipa Rafael e la mette dentro, da nulla il gol di Cyril Terò. Danilo non riesce a liberare, autogol, l'ultimo tocco mi sembra di Cyril Terò. Vincono Napoli e Roma, la distanza tra le due resta di 4 punti, resta formalmente aperto anche il campionato perché il vantaggio della Juve sulla Roma resta di 7 punti, 8-0-0-24-0-0-24. Poi per 2 ore parleremo anche di geometria, di proiezioni e tra poco vi leggo la risposta durissima che la Juve ha appena pubblicato alle accuse di Galliani e del Milan. Alessandro, tutto aperto o è una grandissima illusione? No, io penso che sia aperto, certo, voglio dire, se la Roma non avesse vinto oggi a Cagliari ho probabilmente decretato la parola quasi fine al campionato, mentre così la Roma ha vinto una partita molto molto importante, ma l'ha vinta nel momento in cui gli mancavano tantissimi giocatori, che adesso però va a recuperare, per cui è probabile, immaginabile che da domenica prossima sia anche un'altra Roma, per cui oltre alla vittoria c'è la possibilità di recuperare tanti giocatori e questo lascia aperto comunque una porta al campionato. Sì, sì. Oggi era fondamentale. Sì, eroe di oggi Filippo Verde, Daniele Verde, scusa, classe 1996, 2 assist, un po' la fotografia della Roma di oggi. Ragazzini che tengono in vita la Roma, che ha ragione il direttore, insomma, oggi era di fronte a un dentro fuori, se perdi questa partita allora davvero te la giochi proprio faccia a faccia con un Napoli che ha un viso migliore, mi sembra più leggero, anche oggi con l'Udinese mi sembra un Napoli molto in salute, più della Roma, direttore. Assolutamente sì, insomma, è un Napoli che viaggia a suon di vittorie, che inserisce i nuovi arrivati come Gabbiadini nella maniera migliore, per cui un Napoli che spinge molto, insomma, mi sembra che si vada verso la conferma, non so in che ordine, comunque delle 3 posizioni già dell'anno scorso, che il campionato finì con Juve, Roma, Napoli, e mi sembra Juve, Roma, Napoli anche quest'anno. Da un certo punto di vista è un po' la conferma, dall'altro punto di vista è che forse è un campionato in cui le distanze tra le migliori e tutte le altre sono talmente notevoli, per cui non ci sono troppe sorprese, questo forse non è un gran segnale per il campionato italiano, insomma, dai. No, non è un gran segnale nemmeno, e mi piace sapere cosa ne pensate anche da casa. Ripeto il numero 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19. Non è un bel segnale nemmeno che da ieri sera siamo stati costretti a diventare tutti esperti di proiezioni, prospettive, geometria, tutto merito di Tevez e di Galliani. Sembra in linea dalla linea che abbiamo fatto vedere lì. Sì, insomma, non era al massimo come inquadratura, insomma, magari vedremo per capire meglio. Poi protegge benissimo palla, vedi, mette il corpo attraverso l'avversario, non gli permette di rientrare davanti al portiere. Qualcosa mi fa sospettare, nell'ultimo si vede un movimento di Zaccardo che cerca di salire, io l'ho intercettato proprio nel finale. All'ultimo istante, come se si fosse reso conto. Di essere forse, di tenerlo in gioco, però insomma, vabbè, comunque, è la sensazione. Dalla linea è in gioco, cioè dalla linea non sembra avanti, da quella linea lì che abbiamo tracciato. quella linea lì che da questa mattina sta facendo litigare Juventus e Milan. Oggi Galliani a petto in fuori, le immagini le sceglie la Juventus, fa vedere quello che vuole. Nel replay le linee non erano parallele, anzi nessuna polemica, ma vogliamo registi indipendenti, tutto nell'arco di un paio d'ore, direttore. Ti leggo la risposta della Juventus, molto lunga, però fondamentalmente scrive la Juventus: il signor geometra Adriano Galliani, vicepresidente vicario amministratore delegato del Milan, vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, è tornato nelle ultime ore alle sue antiche passioni, la televisione e la geometria. E poi lo accusa di fare una polemica speciosa e farsesca per mascherare goffamente il risultato del campo. Poi in realtà va anche un po' più nello specifico, si parla, pur senza citarlo, del ruolo di Infront e di una riforma che evidentemente quella chiesta di dare tutto in mano a registi indipendenti non piace alla Juventus. Tu che idea ti sei fatto al di là della geometria? Innanzitutto che il calcio si è consegnato alla televisione e adesso viene divorato dalla televisione, perché dalle immagini, dalle prove televisive che riguardano magari falli di gioco a queste azioni qua, insomma, ormai è comunque l'immagine televisiva che comanda sul resto delle discussioni. Per il resto a me piacerebbe che di queste cose comunque anche Galliani discutesse a bocce ferme, cioè non sull'onda di una linea che può essere più o meno condivisibile. Se c'è un problema filosofico di chi sceglie le immagini, di come vengono scelte, di paternità, sono argomenti talmente seri e talmente importanti che non è che si decidono se poi c'è la partita e la linea che ti fa sobbalzare. Sì, se non c'è il singolo episodio. Io dico questo. Detto che poi c'è un sistema di regole su quello che succede all'interno di un'energia televisiva durante una partita del campionato di Serie A, che secondo me ha ragione la Juventus e lo scrive, ripeto, è molto lungo il comunicato. Galliani per primo dovrebbe conoscere bene, avendole scritte quelle leghe, quelle regole. È grave, cioè dire che hanno truccato le immagini è un'accusa grave, non è acqua di rose. Ma lui non è che discute la riga, perché se discutesse la riga... Lui discute anche la Juve della riga, perché il tweet è lì, ufficiale. Dice, non hanno fatto vedere una linea che non era... Ore 11.59, secondo voi nel fermo immagine prodotto dalla Juve, è già questo, è da discutere, le linee sono parallele? Per noi no. Forse non mi sono spiegato, lui discute sicuramente la riga, però come il risultato di qualcuno che c'è dietro che fa una scelta, per cui... Lui discute a monte il fatto che ci sia evidentemente un club, in questo caso la Juventus, che sceglie le immagini. Allora se questo fosse vero, lui questo tra l'altro lo sapeva prima della partita. Sì, e comunque non è vero, lo diciamo agli amici a casa, non è vero, non è così, produrre le immagini è un'altra cosa. Tra l'altro la Juve non è l'unica, ci sono anche Napoli e Inter che producono le immagini da soli. Tra l'altro voglio dire, un uomo di televisione come Galliani che fa una polemica sulle televisioni è veramente la celebrazione, diciamo, di qualcosa che sta sfuggendo di mano. Direttore, ti chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, perché poi io voglio chiederti perché, e lo voglio capire anche insieme agli amici da casa, 800 24 00 24, perché traffico? Il pallone arriva ancora a Nakata, Tutti convocati. Galliani chiede l'affidamento a registi indipendenti, scrive la Juventus, e pare ignorare che tale opzione non è prevista da alcun regolamento, dovrebbe essere soggetta ad un dibattito e ad una riforma. Pare ignorare che tale schiera di registi indipendenti sarebbe formata, se non addirittura fornita, dall'advisor, procacciatore, produttore, già menzionato prima, che è Infront, che si troverebbe nella singolare posizione di scrivere le regole, eseguirle e trarne anche dei profitti. Cioè, al di là delle dichiarazioni geometra che torna all'antica passione, la geometria, mi sembra che la Juve vada giù pesante con il Milan in questa risposta. 800 24 00 24, direttore. Va giù siamo, pesante. Siamo al cuore. Lo capisco, insomma. Comunque, ripeto, qui non siamo di fronte all'accusa di qualcuno che ha sbagliato, ma di qualcuno che ha sbagliato scientificamente. Insomma, e allora... mi sembra che si alza molto la qualità dello spirito del dibattito, per cui giustamente chi si sente tacciato non di ricevere un favore perché magari non è visto, non è stato visto un fuorigioco o un fallo, ma addirittura di organizzare un disegno per poter avere dei vantaggi, francamente e mi sembra per quelle che erano le due grandi, ricordiamole, le due grandi alleate di 10 anni fa sul fronte dei diritti televisivi e tutto il resto, mi sembra invece un bel motivo di discussione. Ex amici, sì, è cambiato non il mondo, più amici, non più amici. Direttore, comunque ieri si è vista una eccellente Juventus, a me è piaciuta molto, soprattutto dopo aver preso il gol dell'1-1, ha avuto una reazione da grande squadra, di grande umiltà, ma una reazione da grande squadra. Hai detto quello che io stavo pensando, di grande soprattutto umiltà, perché mentre tutti dicono noi vinciamo questo, vinciamo quell'altro, siamo i più forti, abbiamo la rosa migliore, eccetera eccetera, la Juventus vince e poi appena finita la partita dice ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo ancora continuare, bisogna proseguire perché siamo neanche a metà. Ecco, mi sembra un po' questa la differenza, la Juventus è padrona con le proprie forze in questo momento dei giochi, però nello stesso momento è professa grande modestia e grande concretezza, mi sembra che ci sia una grande diversità proprio di interpretazione del ruolo. Sì, gli altri gridano nel bosco per farsi passare la paura. Non ha bisogno di ragionare sulle righe del campo, su geometrie, proiezioni, parallelismi e tutto il resto. Forse la risposta al perché di Galliani è anche nei 13 punti nelle ultime 13 partite del Milan, che è l'altra faccia della medaglia di ieri sera. Siamo qui a dire Milan forse il più dignitoso di questa parte della stagione, che dice molto. Sì, che non è un gran complimento. Che non è un complimento. Perché una volta il Milan andava a Milano a giocarsi la partita, adesso se va lì e perde 3-1 è anche abbastanza contenta della prestazione, insomma questo mi sembra un po' la spia di un problema. Il problema è che un anno fa di questi tempi, era gennaio, metà gennaio, perché io francamente mi ero quasi convinto che fosse passato un sacco di tempo, invece era il 13 gennaio del 2014, quindi un anno fa il Milan ha esonerato Allegri, è convinta che evidentemente i problemi fossero lì, invece di interrogarsi, diciamo così, su personalità un po' diverse in società e quindi un pochino di confusione societaria, oppure di una squadra francamente molto molto debole, aveva pensato che il problema evidentemente era l'allenatore. Io invece credo che in una gerarchia di problemi l'allenatore evidentemente era veramente l'ultimo delle questioni da risolvere. Sì, e prima c'è tutto quello che è il Milan oggi. Grazie direttore. Ciao direttore, grazie. Grazie ad Alessandro Vocalelli. 800 24 00 24 c'è Mihajlovic che sta parlando ai microfoni di Sky. Mihajlovic, buon lavoro. No, non sta parlando più ai microfoni di Sky. Sentiamo cosa succede questa settimana. No, è andato via. No, cosa succede questa settimana? Perché dopo una settimana di lavori forzati, oggi la Samp 1-1 pareggiato in casa col Sassuolo. Sì, facendo fatica. E tu in panchina, entrato nel finale. Una ventina di minuti alla fine, non ha strusciato pallone. Aspetta che c'è la risposta, sentiamolo. La Samp. Volevo che passavamo più tempo insieme. Poi, se noi facciamo doppi allenamenti, se andiamo in ritiro o se faccio allenamento alle 7 di mattina, non è che io sto a casa a dormire e loro fanno allenamento. Anche noi rifiutiamo e anche noi facciamo qualche sacrificio con il mio staff. Con me, perciò siamo sempre con loro, perciò è una cosa che non è che io punisco i giocatori, io forse punisco anche, anzi punisco anche me stesso, però parla di punizione, si cerca sempre di trovare qualche rimedio, di ricompattare il gruppo e tutto, poi chiarissimo. E poi c'è la Sampdoria che secondo me aveva ragione Mihajlovic, settimana scorsa, non ieri alla vigilia di questa partita, è uscita indebolita dal mercato, gira e rigira. Beh sì, indebolita, insomma ha fatto delle mosse di grande appilla, però un giocatore come De Gabbiadini, insomma l'avevamo scoperto prima o anche oggi ne abbiamo capito l'importanza. Il fatto è che Mihajlovic deve capire anche lui in sé, e lui è stato comunque attraversato grandi squadre, che le superstar le devi anche gestire, Giovanni, non è gestire uno come Eto'o e con la carriera di Eto'o non è come gestire, con tutto rispetto, Gabbiadini o Eder o lo stesso Kaká. Sì, scrivono gli amici da casa, perché la geometria è un'opinione. 349 238 6666. L'immagine taroccata, chi l'ha messa in onda, l'immagine, l'intervallo, Ulisse, questo è. Poi un altro amico scrive: perché non guardate la linea orizzontale dell'erba? È evidente che Tevez è in fuorigioco, sempre per quella maledetta storia delle prospettive. Maria Paola da Milano. Buonasera, guardi, io prego. Seguo in questo momento voi e mi ricordo che ci tengono in Europa perché non sentono queste trasmissioni in Italia, comunque sono una juventina e sinceramente non ne posso più di vincere, e allora quest'anno vorrei che vincesse qualcun altro, però la mia telefonata è questa, vivo a Milano, sì. È qualche cosa di pietoso, tutti tutte le televisioni, compresa Mediaset, direi che è la prima. Sono tutti contro il Milan, può giocare bene, tutti male. Tutti contro il Milan. È una cosa indecente. C'è invece l'Inter che è come, non so, la foca monaca, ha capito? È protetta a un livello che certe volte mi fa ridere. Qui parla una juventina autentica dalla nascita. Parentesi, io sono juventina, non ho niente da fare con quei contini della Juventus, no. Ha capito? No. E allora rispettiamo un po' questa squadra, non hanno colpe loro, purtroppo c'è un proprietario che lo odiano, ma è da una vita che è così. Quindi un complotto contro Berlusconi, se le TV voi sottolineano che magari anche noi, se ma sottolineiamo voi, che il Milan ieri sera non ha giocato bene. Sì. Volte, davvero, è triste, sa? E guarda che io lo dico con ironia, guarda che vivere a Milano, poi non parliamo il Telenova di famiglia cristiana, Gesù. Ecco, lasciamo perdere. Grazie Maria Paola, lasciamo perdere. E parla anche della classifica però, signora. Milan 29 insieme al Genoa che deve ancora giocare, gli stessi punti del Sassuolo che oggi ha pareggiato, e certamente l'Inter ha 3 punti in meno, ma fanno schifo tutte e due, vanno a braccetto, quindi non è questione di fare la forca all'uno all'altro, sono due squadre sbagliate, scombinate, non all'altezza della loro storia. Poi... Sì, no, non mi sembra che l'Inter sia stata poco criticata in queste settimane, in questi mesi. No. Ma giustamente, cioè, Gianni da Udine, Gianni. Sì. Eccoci. È il canto del cigno di un uomo che ormai ha già dato tutto, no? A chi? Stiamo parlando di Galliani. Ah. Questo ormai... precedentemente già c'era stata l'idea di... metterlo da parte e ancora lo tengono in piedi perché per finire il campionato speriamo che alla luce di quello che stiamo vedendo abbia il buon gusto di lui di farsi da parte. Questo è la mia opinione. Io continuo però a non capire perché una polemica di così alto livello che non tocca soltanto il fuorigioco di Tevez. Perché no, ce l'ha spiegato anche il direttore Vocalelli, quello è un pezzettino, è un accidente di quella polemica, poi si entra nello specifico di questioni molto più politiche, molto più importanti. Carlo, perché? No, sì. Ma perché? Anch'io non so dire perché, mi sembra una polemica... Ripeto, pretestuosa, io non so se lei ha ragione, canto del cigno, se vogliono accantonarlo, se dovrebbe levarsi di mezzo. Io dico che Galliani è un grande dirigente e tutto il mondo la pensa così, fa con i soldi che gli mettono a disposizione, non è lui il proprietario del Milan, agisce in una situazione molto complicata, in una situazione societaria molto difficile, che conosciamo bene. Dunque non vedo tutti hanno la loro parte di colpa, ma non vedo particolari colpe specifiche di Galliani. Anche questo mercato, ripeto, ha provato a rivoluzionare il Milan anche in maniera un po' confusa e sconclusionata, ma sempre con i 4 soldi che gli mettono a disposizione. Questa polemica io sinceramente non la capisco, ma anche perché, ti ripeto, è estremamente grave, estremamente violenta. Cioè, voi dici alla Juventus che loro taroccano le immagini per fini personali. Sì, Ulisse insiste, impresa diretta, ho visto il fuorigioco, poi nell'intervallo ci hanno detto con la riga che il gol non era in fuorigioco, chi è stato? Ulisse, è stato Sky, ma poi lo raccontiamo dopo le 18, parleremo anche con un grande regista di quelli che ha contribuito a scrivere il regolamento che oggi seguono Sky, Mediaset e la Lega Calcio. La Juventus non c'entra nulla, sentiamo Benitez ai microfoni di Sky. In maniera importante se si vuole puntare al secondo posto. Sì, devo essere soddisfatto perché abbiamo vinto e abbiamo potuto anche fare più reti alla fine, però devo dire che 20 minuti l'abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 2 reti, sembrava che la partita era sotto controllo, abbiamo fatto un errore e loro hanno rientrato nella partita, è stato difficile. Molto meglio il secondo tempo con la squadra più intensa, lavorando bene e alla fine credo che abbiamo avuto tutto il controllo il secondo tempo. Senta, squadra che vince, si cambia e continua a vincere, c'è la sorpresa come al solito per le scelte di formazione, con Mertens e soprattutto Gabbiadini dal primo minuto, mi spiega la scelta se può di Gabbiadini, considerando anche quello che era successo in Coppa Italia, insomma quel gesto di stizza di Callejon, insomma Callejon nelle ultime 7 partite, se non vado errato, ha giocato 3 volte partita dalla panchina, 2 volte è stato sostituito. Il José è il giocatore di campo che ha giocato più minuti, non è un problema per noi perché lui è un bravo ragazzo. Fare giocare Gabbiadini d'inizio è perché lui ha la qualità, e pensavo che per questa squadra, la maniera che loro lavoravano, lui poteva dare una mano. Abbiamo visto che ha fatto il gol, alla fine è stato bene. Questo Benitez, Napoli 6 vittorie nelle ultime 7 partite, ha perso soltanto con la Juventus al San Paolo, era meno 11, è a meno 4 dal secondo posto. 800-24-00-24, c'è anche chi dice: Galliani non ha detto che la palla non era uscita sul calcio d'angolo dove il Milan ha pareggiato, le linee sono dritte solo per i suoi interessi. Ho l'impressione che non ce la togliamo oggi. Tutti convocati. Eh sì, ho un rimpianto, è quello di aver preso un gol alla fine del tempo in più, perché questo non è una cosa che si fa. Valutando quello che non ha funzionato nel secondo tempo, c'è sempre qualche problema di comunicazione, di sincronizzazione tra portiere e difesa centrale, anche nell'occasione di Chop? È un argomento che riprendiamo settimanalmente. Dove deve fare il salto di qualità da questo punto di vista, quel pacchetto centrale difensivo? Penso che abbiamo difeso bene, soprattutto perché sappiamo che in questo momento dove abbiamo tanti problemi. Non era facile rimanere con una fiducia alta, e l'abbiamo dimostrato nel primo tempo, la fiducia c'era, e quando siamo così siamo molto più efficaci. L'unica cosa è questo gol che è venuto, siamo quasi 3 difensori contro i 2 attaccanti, e dobbiamo fare meglio, soprattutto perché il tempo era scaduto. È una buona cosa forse per tenere i giocatori con l'attenzione alta, diciamo. Roma, ogni questo Garcia ha 3 punti però importantissimi, quelli di oggi della Roma. Terza vittoria nelle ultime 9. Oggi c'era una squadra intera fuori, eh? Lobon, Florenzi, Manolasca, Stan, Balzaretti, Strootman, De Rossi, Gervinho, Iturbe, Ibarbo e Dumbia. Sì. Questi sono quelli che oggi Garcia non aveva. E credo che anche per questo i 3 punti di oggi siano pesanti, siano importanti. Sì, pesanti, importanti. Poi sono, hai sottolineato tu bene, sono arrivati anche attraverso giocatori inediti che possono, che devono dare qualcosa in questo momento difficile della Roma. Totti è stato sostituito, Verdi è stato protagonista di questa vittoria con i 2 assist, Paredes è entrata, ha segnato, insomma. Mi sembrano buoni segnali. Poi Garcia va a prendersi quel golletto subito. Una situazione di questo tipo, secondo me la Roma oggi deve solo essere contenta. Daniele da Genova. Daniele. Daniele. È caduto Mauro da Udine. Sì, buonasera. Eccoci. Bella partita quella di Napoli-Udinese, solo che il primo gol è stato viziato dal mani di Mertens, e come al solito l'Udinese è penalizzata per l'ennesima volta dagli arbitrati. Queste sono le conclusioni. Allora, Udinese che non era stata fortunatissima nemmeno in Coppa Italia, ricordo male, al San Paolo. Esatto. Allora, che si passano le partite tra Juve, Inter, Napoli, Milan e quant'altro, cioè veramente una vergogna, arbitrato a senso unico, è proprio veramente non si merita questo 3-1 in Napoli. Sì, che pure mi sembra Mauro abbia giocato bene, poi analizzeremo tutti gli episodi. È andato Mauro? Sì, analizzeremo come al solito, polverizzeremo la partita in 1000 fotogrammi, con magari facciamo anche una telefonata a Gagliani per vedere come erano le righe del campo e delle telecamere, ma per quel che abbiamo potuto vedere, cioè per la visione parziale che possiamo avere noi guardando 1000 partite, mi sembra un Napoli che ha giocato molto bene. Tu fai ironia su Gagliani. Un amico scrive via SMS: tracciate una linea anche sul gol di Muntari, poi prendete il vostro sarcasmo, la vostra proverbiale disonestà intellettiva e mettetevela. Sì. Eccetera eccetera eccetera. No, in realtà ce l'aveva con me, lo saluto. Daniele da Genova. Daniele. Eccoci. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo solo intervenire poi in merito agli equilibri del campionato di cui si sta parlando adesso in termini arbitrali, ma anche sì, prima si parlava in via generale. Niente, il mio intervento è un po' sul fatto che l'analisi dell'andamento riguardo soprattutto a individuare tre forze nel campionato mi sembra leggermente azzardata, poiché secondo me nel mese di gennaio Napoli ha avuto una buona serie positiva dovuto anche a risultati abbastanza faticati con Napoli, se non per vedere la Lazio eccetera eccetera, quindi comunque sostanzialmente 3-6 punti in meno avrebbero comunque inciso diciamo su quello che è l'andamento. 3-6 punti in meno chi? Scusa, il Napoli. Sportiva, io non sono, diciamo, non mi attacco al discorso arbitrale. Io dico le partite che ha giocato il Napoli sì. Non è che hanno messo in mostra come hanno fatto per 3-4 mesi dall'inizio del campionato Roma-Juventus. Roma e Juventus hanno, salvo la crisi della Roma per carenze organiche, problemi vari, diciamo hanno avuto un andamento senz'altro molto superiore rispetto alla mia sì, e altre. Però possiamo dirlo che il Napoli in questo momento sta bene o è una fotografia così lontana dalla realtà? Io per carità, poi ci sono gli episodi, li abbiamo analizzati, li analizzeremo. Come fanno certe volte le grandi squadre, anche la stessa Juventus, alcune partite le ha vinte con il lampo di un fuori classe. Quando una squadra vince 6 delle ultime 7 partite, possiamo dire che ha cambiato passo o no, Daniele? Ti ricordi quella che non ha vinto con tutte quelle che non ha vinto. Grazie Daniele, torniamo un attimo indietro, riavvolgiamo il nastro a ieri sera a Juve Milan. Stasera era una partita importante innanzitutto perché Juve Milan non è mai facile, poi dopo perché erano tre punti pesanti, perché accendere di nuovo e ribaltare la condizione psicologica è un attimo. 7 punti sono tanti, però in caso di mancata vittoria la Roma aveva la possibilità di avvicinarci con lo scontretto ancora da giocare. Alla squadra, insomma, avevamo tantissimi assenti e giocare contro una squadra così diventa difficile. Oggi devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo provato a stare alti, ad aggredirli, chiaro dobbiamo migliorare qualcosa, però queste prestazioni secondo me, a parte il risultato, ti danno grande morale. Sì, per fortuna Juve-Milan di ieri sera non è solo questione di geometria e di prospettive. Aldo Serena, ciao Aldo. Aldo Serena lo recuperiamo adesso. Però ha detto anche che sul campo la differenza di qualità tra le due squadre è una differenza in questo momento incolmabile. Sì, possiamo anche dire che il Milan l'abbiamo fatto prima, no? Che ha giocato la miglior partita di questo spicchio di stagione e avendo perso in maniera netta. Questo non depone a favore del Milan, che pure anche lì aveva tante assenze, Menez che è stato male subito dopo l'inizio e Destro che era inopinatamente squalificata. Abbiamo visto un buon Antonelli, qualcosa si è, almeno hanno combattuto, qualcosa si è intravisto, sempre un centrocampo di scarsa qualità. E poi possiamo anche dire, Giovanni, al di là delle linee di Galliani e delle immagini televisive, possiamo anche dire che la Juventus a Torino raramente segni in contropiede. Sì, tra l'altro quasi da rimessa laterale, esatto. Che è uno dei temi della settimana. Aldo, eccoci. Ciao Aldo. Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Troppa differenza tra Juve e Milan, al netto delle linee tracciate, di tutte le polemiche, il campo però ha confermato che sono due squadre che oggi giocano due campionati diversi. Sì, sicuramente, anche se la Juventus ieri non era una Juventus furiosa che ha strapazzato il Milan, è stata una Juventus abbastanza equilibrata, con alcune defezioni. Secondo me il centrocampo della Juventus non è stato al top, no. Perché Pirlo non ha dato il meglio di sé, lo stesso vale per Vidal, Pogba fin troppo narcisista, ha cercato troppo le giocate, invece è uno che fa tanta sostanza. Si è confrontato però con il centrocampo del Milan che è veramente imbarazzante. I tre rispetto a quelli della Juventus, anche a mezzo servizio, erano molto distanti. Sì, Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal contro Poli e Siene Muntari, tra l'altro il capitano del Milan ieri. Oggi la Gazzetta dello Sport, se non sbaglio, aveva un sommarietto con scritto: scambiereste 8 Muntari con Pogba. Aldo, li scambieresti? No. No, no, assolutamente. 9? No, no, perché, te ne fai. Neanche, però devo dire che, guarda, ieri il Milan mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso perché mi aspettavo una partita delle solite di Inzaghi, abbastanza con il baricentro basso, cercando di andare in contrattacco veloce. E questo non è accaduto perché hanno provato anche pressare alto. Hanno messo un po' in imbarazzo anche il giro palla della Juventus nella metà campo dei bianconeri, ad alcuni tratti. Poi ci sono stati degli errori notevoli e poi insomma un Milan che ha trovato dei giocatori nuovi di livello, perché devo dire che Paletta ha fatto il suo, Antonelli è stato il migliore, però insomma ecco, Cerci a mio avviso sta bene sotto il profilo fisico, atletico, è anche motivato. Non ha inciso per nulla. Sì, c'è però la sensazione che il Milan sia uscito rinforzato da questo mercato di gennaio, un po' più logico, con qualche pedina che la potrà aiutare. Tu hai citato Paletta e Antonelli, ricordiamo, perché l'abbiamo fatto con la Roma, che anche il Milan ieri aveva l'alibi delle tantissime assenze. Sì, questo sicuramente. Non so, ecco, voglio vedere alla prova dei fatti destro Milan, che se gioca come ha giocato prevalentemente in questa parte di stagione, non portando cross, non portando azioni veloci, immediate, in mezzo all'area di rigore, palloni per la prima punta, destro potrebbe fare anche la figura alla fine di Torres. Il Milan che deve cambiare atteggiamento, deve giocare anche per la prima punta quando giocherà. Quando è entrato Pazzini ieri, ecco, ha avuto un ottimo pallone Pazzini, non propriamente di suoi, però ecco, è arrivato vicino al gol, è stato bravissimo Buffon a prenderla, invertendo secondo me le due azioni col Parma, quella che ha avuto destro di testa ed è insomma un giochetto un po' stupido che faccio, e l'azione di... E quella di destro di Pazzini di ieri sera, messa sul piede di destro. Ecco, invertendo i giocatori probabilmente sarebbe cambiata anche la storia. Sì, anche se coi sei, come mai è difficile scrivere l'esito delle partite. Aldo, ti chiedo un minuto di pazienza, c'è traffico, poi vorrei capire a che punto è la Juventus, perché si avvicinano le settimane decisive, torna la Champions, si avvicina anche il 2 marzo, il giorno del confronto diretto con la Roma, che potrebbe sigillare definitivamente questo campionato. Traffico. Sì, io partirei proprio dal gol, da quello che è successo subito dopo il gol. Hai provato tutto in settimana, no? Sì, era una verticale provata in settimana. Anche a Vinovi sono i cartelloni, l'avevo provata e è venuta bene. Tutti convocati. Pallone verso il pareggio! Esordio, non c'è male. Sì, è un esordio, però portiamo a casa 0 punti e questo purtroppo è quello che conta. Questo è Luca Antonelli, esordiente con gol nel Milan. Aldo Serena, 800 24 00 24, in attesa degli amici anche da casa. Noi andiamo avanti fino alle 19 e vogliamo sapere che opinione avete voi sulle proiezioni, sulle prospettive, sulla linea di Galliani e non solo. Aldo Serena, invece, parlando della Juventus, hai l'impressione che il rodaggio sia finito, che Allegri abbia anche le idee più chiare? Ad esempio in attacco mi pare che Morata abbia ribaltato le gerarchie con Llorente e, ripeto, ci avviciniamo alle settimane decisive. Sì, perché Morata rispetto a Llorente ha più capacità solitaria di creare le azioni, Llorente ha più bisogno dell'aiuto dei compagni. I due attaccanti della Juventus nella gestione Allegri giocano meno in coppia rispetto alla gestione Conte. Conte li voleva molto vicini, non sulla stessa linea, cioè, e cercava sempre di creare i presupposti del dialogo fra i due attaccanti, mentre i due attaccanti di Allegri giocano un po' non propriamente vicini, si scambiano un po' con la palla. E Morata è bravissimo a attaccare lo spazio, la profondità, è un attaccante completo rispetto a Llorente, ha meno prestanza fisica, però ecco, devo dire che ha più tecnica, è bravo nel dribbling, a tiro, è un attaccante completo. Secondo me a breve ci sarà l'esplosione di questo giocatore. Sì, è pronto per fare il titolare. Sì, sicuro, è pronto per fare il titolare, ma poi ha spiegato molto bene Aldo Serena, insomma, per ridimensionare anche la partita del Milan ieri sera, raramente abbiamo visto Pogba, Vidal e Pirlo giocare così sottotono tutti e tre insieme. Poi c'è stato un grande Marchisio ed è stato bastato quasi da solo con quel pochissimo che è il centrocampo del Milan. Aldo, voglio chiederti invece un'altra cosa: cosa ne pensi del polemicone tra l'ex allenatore della Juventus e Conte, il presidente federale, la nazionale? Devo dire che non so se ha visto ancora una volta un tormentone che c'è stato anche in passato. Adesso mi ricordo Sacchi quando allenava il Milan e poi quando è andato in nazionale, voleva chi, insomma, gli allenatori tirano sempre acqua al proprio mulino e vorrebbero che a disposizione i giocatori. Io penso che sto dalla parte delle società più che da parte delle nazionali. Le società pagano i giocatori e hanno bisogno sicuramente, soprattutto in questo calcio ricco di partite e anche di allenamenti. La nazionale li ha quando le società possono darglieli. Io in questo caso sto dalla parte delle società. Cioè, sta un po' esagerando. Hai la sensazione che si stia costruendo una strategia d'uscita da questa avventura con la nazionale? È una strategia d'uscita successivamente a una situazione di disagio che è quella probabilmente che non si sarebbe aspettato. Probabilmente non c'è stato un dialogo fitto, uno scambio costante e proficuo di idee fra Tavecchio e Conte, e lui probabilmente ha avuto anche qualcuno che gli ha sussurrato qualche cosina all'orecchio invitante. Da Parigi magari, o da Milanello, visto che va di moda. E quindi adesso ci sta pensando. Sì, detto che Conte fino a sette mesi fa era allenatore di un club importante che dava tanti giocatori alla nazionale, e quel club era la Juventus. Viene difficile pensare che Conte non sapesse come funzionavano i rapporti tra i club e l'Italia, ma non solo in Italia, perché poi io credo che come la Juventus, Milan, l'Inter la pensino, Real Madrid, il Barcellona in Spagna, il Bayern Monaco in Germania, Aldo, cioè viene anche un po' strano pensare a Conte che atterra chissà da dove e scopre che ai club la nazionale fa piacere una volta ogni 4 anni. Beh, io penso che lui abbia un'alta considerazione di sé e sia molto bravo, e che sia anche penso che lui si creda molto convincente. Ha cambiato le cose alla Juventus in maniera definitiva, perché è lui che ha dato proprio la svolta in maniera notevole, e pensava di farlo anche in nazionale, creando anche situazioni nuove. Probabilmente non ci sta riuscendo e quindi non è contento. Grazie Aldo. Ciao Aldo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie ad Aldo Serena. Mi fate sentire Zola, microfono di Sky? Un attaccante, un centravanti che segni con un po' di regolarità. Pensi di averlo un giocatore con queste caratteristiche? Ah no, certo, pensiamo proprio di averlo. Chop ha dimostrato di essere un giocatore, un buonissimo giocatore. Oggi non è stato preciso come magari lo è stato la prima partita che ha giocato, però crediamo molto nelle sue capacità, e poi sappiamo anche di avere un altro giocatore come Sau che ha gol nelle gambe. Purtroppo Marco l'abbiamo avuto per 3 giorni con la febbre, non ha potuto giocare all'inizio, però io credo molto dei miei attaccanti, quindi sono sicuro che i gol arriveranno. E si è presentato benissimo. C'è un amico anche un che po'. Ci chiede di parlare del Toro, che ieri è arrivato alla 4ª vittoria consecutiva. Hai visto Cairo bello tranquillo in tribuna? Ma certo, ma bello tranquillo in tribuna. Braccino Cairo. Ma Braccino Cairo che se la sta godendo, se la sta ridendo giustamente come un matto, e con lui Ventura. Io sono estremamente felice, soprattutto per Ventura, cioè è stato contestato, messo sulla graticola da una parte della tifoseria. Ma che vogliono? Che volevano questi? Cairo ha costruito una squadra che è più debole rispetto a quella dell'anno scorso, non ha più Cerci Immobile, non ha più giocatori che la sbattono dentro con frequenza risolvendoti un sacco di problemi, però è rimasto un'idea di squadra, un progetto di squadra. Ventura ce l'aveva ben presente, gli interpreti hanno minore qualità. Poi legge la classifica del Torino che recita 31, sì, a 4 cioè, punti dalla Sampdoria, di cui giustamente raccontiamo esatto. Meraviglie da settembre. Il Toro è sotto 4 punti, certo. A Fiorentina oggi ne ha 35, per non parlare del Milan e dell'Inter. Dai, Giovanni, sì. Giovanni D'Andrea, ma lì il problema sono Milan e Inter. Buonasera, non i 31 punti del Toro. Giovanni D'Andrea, certo. Eccoci. Buonasera, senta, mi fido soltanto di voi che siete i migliori. La signora ha ragione, io sono un gran tifoso del Milan, ho visto le immagini, dal gol mi sono accorto che la linea è storta, però si sa... Lei è sicuro che la linea è storta? Sì, perché Sky purtroppo è di sinistra, è contro il Milan e contro Berlusconi, e quindi è sempre che fa così. Quindi a Sky sono comunisti, Giovanni, a Sky sono comunisti. Sono comunisti, certo, l'altra volta scrissero Milan merda, parlano sempre contro Berlusconi, quindi... E poi non fa vedere, c'è l'oscuramento sul Milan, purtroppo siamo diventati così deboli che ci oscurano, perché nessuna TV ha fatto vedere che sul 2-1 dopo... Nemmeno Mediaset, partiti, magari sono infiltrati comunisti anche lì, neanche Mediaset. Ma tutte le TV, sappiamo di chi è Mediaset. Ci sono sul 2-1 per la Juventus, dopo l'occasione di Pazzini c'è il calcio d'angolo e Antonelli viene atterrato, quello è rigore netto, sì. Poi la gomitata di Chiellini, quelle tre giornate sicure, espulsione, purtroppo nessuno l'ha fatto vedere, nessuno ha detto. Vediamo domani, anzi martedì, vediamo il giudice sportivo, magari invece qualcosa succede. La Juventus succede. È forte, però quando viene aiutato, perché alla Juventus purtroppo bisogna giocare senza bandierine, perché il fuorigioco è abolito con la Juventus. È tutto un complotto, Giovanni, tutto un complotto contro il Milan. Hai ragione, grazie Giovanni. È tutto un complotto, sì, contro il Milan. No, è chiaramente un complotto comunista contro il Milan. Quei comunisti di Sky hanno messo delle righe storte apposta e quindi è certamente così. E il Milan ieri sera doveva vincere 4-2. Oh, se siete d'accordo, 800 24 00 24, noi stiamo qui fino alle 19, però nessuno ci ha ancora dato la spiegazione tecnica sulla proiezione della riga del replay di Sky. Vediamo di averla più tardi, no, la spiegazione tecnica. Questa sono fresco perché l'ho spiegata a mia figlia, che però fa le medie, quindi non è tanto difficile, si chiama prospettiva. È per questo che la linea non sembra parallela, perché la proiezione, a causa della prospettiva, la rende così. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24, se becchiamo tra poco, Tutti convocati. 800 24 00 24, vi aspettiamo qui, siamo in onda fino alle 19, che siate esperti o no di geometria, che abbiate un'idea sulla linea dello Juventus Stadium. Saluto Valeria Bernardi in regia. Pier, ciao, eccoci. Come te la cavavi con la geometria? Ormai ho scoperto, una volta al mese abbiamo il nostro ripasso di geometria. Me la cavavo discretamente, insomma, non è che proprio fosse la mia materia preferita, però fa abbastanza ridere, perché pensavo fosse una fase della vita quella superata, e invece poi tutto torna. Sì, dobbiamo tornare tutti sui banchi dopo di scuola. La posizione ortogonale di Udinese-Roma, ti ricordi? Sì, esatto. Siamo dentro, sera fuori. Siamo agli assi cartesiani storti. Esatto. Sì. Vi posso far sentire, siccome soprattutto il comunicato del Milan tira pesantemente in ballo Sky, perché adesso noi cominciamo anche a fare chiarezza su quello che è successo ieri sera. Fra pochi minuti avremo un regista storico del calcio italiano, uno di quelli che ha scritto anche le regole che i club e la Lega devono seguire, quindi ci racconterà che cosa succede dentro uno stadio, dentro una regia televisiva. Ieri a Torino la regia era di Sky e il Milan, che nel tweet e nelle parole di Gagliani se l'era presa con la Juventus, dicendo che produceva le immagini e scientemente decideva cosa mandare in onda e cosa no, poi nel comunicato intorno alle ore 13 scrive: intendiamo dire che dalla prossima stagione ci devono essere registi indipendenti. Oggi il direttore di Sky Sport Fabio Caressa, a proposito di chi decide che cosa va in onda e cosa no, gli ha risposto così. Il regista, ieri per esempio, era un regista Sky. Non è la Juventus quindi che sceglie o non sceglie di mandare quelle immagini, come non è il Milan che sceglie o non sceglie di mandare immagini quando la partita è prodotta in casa del Milan. Mi sorprende che questa cosa non si sappia. Forse c'è stata una distrazione, però lo sanno benissimo. E poi sulla famosa linea bianca tirata nel replay che mostra Tevez in posizione regolare, una linea che secondo il Milan non sarebbe parallela alla linea di centrocampo lì vicina, Caressa. C'è stato il tweet del Milan che fa vedere che la linea tracciata da Sky, in questo caso non dalla Juventus, sarebbe non parallela rispetto, vedi che non è parallela, allora guardate il taglio dell'erba, vedete che il taglio dell'erba che è parallelo, che non è parallelo lo stesso, è parallelo, ma non è parallelo nell'immagine, perché vedete che la linea parallela poi si muove. Questa, sono fresco perché l'ho spiegata a mia figlia, che però fa le medie, quindi non è tanto difficile, si chiama prospettiva. È per questo che la linea non sembra parallela, perché la proiezione, a causa della prospettiva, la rende così. Ci sei, Pierre? O ti sei perso? Ci sono, assolutamente. O ti sei perso tra prospettive, proiezioni? Ci sono, no, ma è così. Le posizioni sono molto chiare. Caressa ha perfettamente ragione. Io credo che, insomma, sarebbe grave cominciare a pensare, insomma, che le televisioni possano tifare per una squadra piuttosto che per un'altra. Ecco, qualcuno potrebbe, parlo di noi, tanto per essere molto chiari, qualcuno, no, qualche volta tira in ballo, figuriamoci il Milan Mediaset. Noi abbiamo un moviolista che si chiama Graziano Cesari, che ieri, insomma, all'intervallo ha detto che il gol era buono e che, per esempio, tanto per citare una partita che ho fatto io e che quindi ti ricordo benissimo, freschissima, un paio di settimane fa Lazio-Milan, alla fine del primo tempo, ha detto che c'erano due rigori non dati alla Lazio sul Milan. Quindi io, prima di tutto, sgombrerei veramente il campo da ogni malizia. Poi, insomma, io ieri la partita, ti dico la verità, l'ho vista fra l'altro su Sky in un bar in Sardegna. Ho notato questo da telespettatore, rispetto, diciamo, a quella che è la mia sensibilità, poi di uno che fa anche le telecronache, magari pochi replay, cioè, l'episodio mi è sembrato un po' per una questione di scelta, non dico che sia stato fatto assolutamente con dolo, ecco, questo si può magari dire, il fatto che non ci sia stata, diciamo, un focus durante la partita particolarmente ricco di immagini a supporto. Sì, ma c'è stato magari anche, ha fatto vedere per dire una volta il fallo di mano di Essien, cioè, se noi seguiamo questa logica è una china pericolosa. Ripetiamo questa roba qui, che ripetiamo continuamente, l'incubo del telecronista è la partita con gli episodi arbitrali. Io stasera sono andato a fare Inter Palermo, spero veramente, come non so chi c'è di Sky, ma qualunque telecronista di qualunque partita pensa e spera solo che non ci siano episodi, perché gli episodi ti portano a quella situazione ibrida in cui, appunto, devi rivedere le immagini e non puoi parlare di calcio. Se c'è un torto arbitrale lo devi dire, ma non lo puoi dire tante volte, perché sennò diventi ripetitivo, cioè diventa tutto un regno opinabile di discussione e di polemica, e francamente non ha nessun significato. Quindi pensare al dolo assolutamente no, mi sembra una follia. Sulla prospettiva sono d'accordo, nel senso che comunque non doveva essere parallela. Io il tweet del Milan francamente non l'ho capito. Poi che ci possano essere dei dubbi su quel gol, sul fatto che magari sarei aspettato una, dal punto di vista della regia, ripeto, la regia è divisa, le partite sono divise fra Sky e Mediaset in maniera proporzionale, più o meno il 60% delle partite le fa Sky. Sì, su 10 ne fa 6 Sky, 3 Mediaset e una è la cosiddetta regia indipendente. Ma una volta fatta vedere un paio di volte l'episodio, mi è sembrato tutto abbastanza pacifico. Mi sorprende, Pier, piuttosto che un uomo della TV come Gagliani, uno che sa tutto di questi meccanismi, abbia tirato in piedi un polverone di questo tipo. Mi sorprende. Magari dietro c'è qualche polemica, insomma, di quest'estate, no? Poi alla fine sappiamo che Juve e Milan politicamente, e questa diventa inevitabilmente una questione politica, no? Una questione di rapporti, di lega. È vero che la Juve si produce le partite, questo non ci sono, sì, dubbi, non è l'unica, non è l'unica. Ci sono anche Napoli e Inter, certo, però voglio dirti, io credo che questo sia più che altro un discorso, diciamo così, di politica interna alla lega, di rapporti che sono ovviamente non troppo distesi, perché sappiamo che Juve e Milan sono praticamente, il Milan è stato uno degli sponsor assieme alla Lazio, assieme al Genoa delle elezioni di Tanecchio, la Juve era completamente dall'altra parte, quindi i rapporti, diciamo, di non belligeranza e di amicizia che c'erano qualche anno fa oggi sono... Sì, c'era una volta un'alleanza di ferro e adesso non c'è più. C'è il traffico, vi leggo cosa ha detto Ilaria D'Amico qualche minuto fa: nessuno viene o può venire a raccontarci che cosa è meglio dire o non dire. Tutto è frutto del nostro pensiero e della nostra onestà intellettuale. Può esserci un margine di errore, un punto di vista parziale, come normale, ma nessuno metta in dubbio la nostra professionalità. 800 24 00 24, traffico. Luca stasera è stato molto bravo, perché anche nella palla a Pazzini, stavo dicendo nel 2-2 magari. Convocati. 800 24 00 24, Adriano da Treviso. Adriano. Salve, eccoci. A tutti voi. Prego. Salve. Niente, io sono tifoso del Milan da quando avevo 9 anni e adesso ne ho 53, quindi sono tifoso del Milan da prima di Gagliani, da prima di Berlusconi, da prima di tutti questi. Secondo me, per l'episodio di ieri chiamato in causa, che avete discusso adesso, Sì, o anche no, perché ripeto, poi ci sono le immagini, Adriano. Sì. Le immagini, ci sono le immagini, le abbiamo viste in taroccate. No, io non sto dicendo che sono taroccate, sto dicendo che le immagini parlano chiaro, parlano di un fuorigioco che era evidente, ma era evidente in diretta, insomma, anche io ho assistito alla partita in un locale pubblico con tifosi milanisti e con tifosi juventini. Anche i tifosi giuventini sono stati d'accordo a dire che quello era un gioco, appunto. Non è una novità. Quindi quella linea era storta, Adriano. Pier, restiamo sempre qui. La linea era storta, ha ragione Gagliani. Io non lo so, in effetti, allora io ti dico, come veramente ieri sera casualmente anch'io ero in un locale pubblico, sicuramente quel tipo di situazione vista a velocità reale, anche io avevo nel pub, vi saluto. Amici di Gino Rizzano, avevo anche le tifosi della Juve presenti al pub e sembrava fuori gioco, l'intervista sembrava fuori gioco a occhio nudo, su questo non ci sono dubbi. Poi nel momento nel quale una rete televisiva ti dà un'immagine precisa con una linea fatta col computer, secondo me bisogna crederci, perché sì, bisogna arrendersi all'evidenza. Lo dico sinceramente, delle due l'una, se non si crede più a quella cosa lì, non si crede più a niente. Allora vuol dire che la televisione in questione, e anche noi che abbiamo, che in qualche modo ci siamo fidati di quella simulazione e abbiamo dato lo stesso risposto, siamo tutti in malafede. Questo mi sembra francamente inaccettabile, mi sembra completamente certo, anche paradossale per alcuni tratti, anche paradossale. Adesso poi c'è Bonnici che sta arrivando, no? Sì, sta arrivando. Che ci possa essere una questione anche in questo caso, quel famoso caso di Dinese Roma, veramente legata ai millimetri, su questo non ci sono dubbi. Tra l'altro giova ricordare che nel caso di un fuorigioco al limite c'è un'interpretazione da parte dell'International Board, e questo non lo decide né Sky né Mediaset, è l'interpretazione che da tutti gli arbitri del mondo, che è in caso di dubbio no flag, cioè il stare bassi con la bandierina, giusto o sbagliato che sia, l'indirizzo giurisprudenziale che viene dato a tutti i guardanie del mondo è che se siamo veramente in quella situazione too close to call, cioè troppo vicini per poter dare un verdetto perfetto, il guardaline non deve alzare la bandierina. Detto questo, io l'ho vista, diciamo, al volo mi sembrava fuori gioco, e la sensazione a, diciamo, velocità reale ce l'ho avuta anch'io. E poi è arrivata quella maledetta linea che ha detto il contrario, e dobbiamo fidarci. Lo salutiamo Popi Bonnici. Ciao Popi. Ciao. Uno dei grandissimi registi del calcio, del calcio italiano. Caro Gattopardo, felice di sentirla. Sì. Dobbiamo fidarci, Popi, di quella maledetta linea bianca che è stata tracciata non si sa da che manina. O magari ci spieghi da chi è stata tracciata, così insomma facciamo chiarezza. Ma guarda, innanzitutto volevo soltanto dire a mio amico Gattopardo che make it easy è l'altra formula fondamentale che con la Champions League e con UEFA viene indicata ai registi. Quindi questo è il primo punto, per cui quando è legato un pochino a troppi replay eccetera, sai che loro ci tengono a non esagerare con i replay, anche perché a volte un replay di troppo ci leva un'azione, un gol, e dopodiché scattano i meccanismi di rabbia dell'uno o dell'altro perché non ho visto magari l'azione. Sì, Popi, prego. Popi, posso, no, posso fargli rispondere? Chi traccia quella maledetta linea? La Juventus, il Milan? Chi? Guarda, su questo ha ragione ovviamente Pardo, perché la linea viene tracciata da ognuno dei broadcaster. Ognuno ha le sue tecnologie per poterla inserire su questo piano. L'immagine normalmente viene presa, viene trasferita su un piano tridimensionale, e quindi su questo piano tridimensionale viene inserita una geometria corretta. Poi che sia la Juventus, il Milan, la Roma, l'Inter, le squadre che volete, poco cambia, cioè nessuno di quelli che tracciano questa riga fa il tifo per l'uno o per l'altro, ecco. Sì, ma allora Gagliani tutte queste cose dovrebbe saperle, no? Chi meglio di lui dovrebbe sapere queste cose, e per il motivo per cui viene ad alzare un polverone di questo tipo pretestuoso a me sfugge. Perché, ripeto, nessuno meglio di lui conosce tutte queste tecniche, tutte queste strategie. Cioè, è arrivato ad accusare prima Sky, la Juventus, Sky e poi Sky, la Juventus e Sky di dolo, cioè di aver truccato le immagini. Manco fosse il gol di Turone. Ma primo, nella regia internazionale queste immagini non hanno nessuna linea, nessuna riga. Come vi dicevo prima, vengono messe poi dai broadcaster, quindi cioè non sono presenti nella realizzazione del regista internazionale. Nel momento in cui vengono inserite nelle immagini di Sky, allora viene inserita questa apparecchiatura che traccia questa linea. Io temo che, e qui mi farò qualche nemico in più, temo che l'interesse sia ben diverso dal fuorigioco o non fuorigioco del caso. Temo che l'interesse sia legato proprio a un rapporto di forza all'interno della Lega, cioè di una Lega che probabilmente fa fatica ad applicare un suo ruolo e che in questo ruolo dovrebbe essere veramente quella che controlla e che fa, e non dovrebbe essere qualcun altro. In questo caso, diciamocelo chiaro, probabilmente sarebbe meglio vedere una Lega molto più ispirata, sì, alla Lega tedesca, alla Bundesliga, senza bisogno di altri soggetti. Sì, magari con un commissioner che può decidere, dire chi ha torto, chi ha ragione. Oh, sai chi la pensa come Popi Bonnici, Pierre? Sì. Tuo amico sì. Caressa, te lo faccio sentire così completiamo la risposta di Sky. Serve un organo terzo su queste cose. Allora, se la Lega si mette in testa di essere un organo terzo, con un presidente di Lega che fa il commissioner, e quando litigano c'è uno alla Lega che dice è così o non è così, oppure se continuano a litigare tra di loro in continuazione, serve che la produzione faccia un altro, perché non sono in grado di stabilire loro tra di loro chi è terzo. Questo Caressa, quindi per chiarire, Popi Bonnici, quando si dice la Juventus produce da sola le immagini della partita, non significa che fa la regia e decide cosa va in onda e cosa no, giusto? Ma neanche lontanamente. Il concetto è Juventus, come Inter, come Napoli, mettono a disposizione le tecnologie che sono necessarie per fare la partita. Ci sono delle regole, sono state scritte queste regole, sono precise e ognuno deve rispondere di ottemperare a quello che gli viene richiesto da parte del regolamento di Lega. La definizione di che cosa mandare in onda, cosa non mandare in onda, compete esclusivamente al regista. È lui che decide se far vedere una cosa o non farla vedere, compatibilmente con i tempi, con le possibilità, con quello che ha di immagini che gli vengono fornite dagli operatori con cui lavora. Questo è. Pier. Sì, poi tra l'altro questo tipo di episodio, cioè l'aspetto diretta in questo episodio qui è anche molto relativo, nel senso, io trovo, guarda, l'eventuale peso dei registi può essere spiegato sul corso della prova TV, no? Qualche anno fa c'è una mega discussione dello sputo di Zago, erano i tempi, l'inizio della prova televisiva a Roma, questo episodio dello sputo di Zago, cioè che è il primo che mi viene in mente, cioè tutto ciò che in qualche modo può essere sfuggito all'occhio dell'arbitro, che rimane in qualche modo nascosto nelle isocam, che come il maestro Bonnici insegna sono tutti gli scarichi, tutte le immagini varie che ci sono di una partita, no? Prese da tutte le telecamere che non vanno in onda, perché non vengono mostrate in onda, ma che rimangono lì in mezzo e che a quel punto un regista può decidere di tirare fuori. Lì eventualmente un tipo di peso ci può essere. Mi spiace interrompere, tu sai benissimo che poi tutte quelle immagini arrivano ai broadcaster, perché tutte le immagini che sono di contestazione, ipotetica contestazione, vengono poi inviate a fine partita, quelle che magari non si sono viste, vengono inviate a fine partita alla Lega. Ciò significa che sono a disposizione di tutti i broadcaster. Hai fatto benissimo a dirlo, Bobby, però ecco, su quella situazione lì ci può essere, se tu vuoi, proprio, ma io sto facendo l'avvocato del diavolo. Su una situazione di quel tipo ci può essere chiaramente un regista più attento nel tirar fuori un'immagine che può mettere in difficoltà, tra virgolette, no? Può dare una visibilità mediatica subito, un impatto subito a un certo tipo di episodio. Ma l'episodio di ieri è talmente importante, essendo l'episodio che porta un gol, che la discussione su quell'episodio non avviene durante la telecronaca, avviene anche dopo, quindi alla fine non è Sky piuttosto che Mediaset, non è il singolo regista, le immagini sono quelle, la tecnologia è quella e secondo me bisogna fidare. Ma come è giusto che sia, tu hai detto bene, io devo fare la telecronaca, io non devo mettermi a fare la moviola o l'analisi della partita mentre la partita è in corso, io voglio personalmente, te lo dico, voglio vedere la partita, poi tutto quello che è il post lo andremo a analizzare con calma, avremo tempo, modi e tutto il resto, cioè questa è una delle prime regole, make it easy, siccome noi parliamo facile, una cosa Pier. Culturale, secondo me esiste anche l'episodio arbitrale che è X, che non è né uno né due. Io ho fatto Udinese-Roma, ci sono delle cose, tipo quel gol di Udinese-Roma, dove alla fine noi dovremmo metterci l'anima in pace, nel senso che esistono delle cose che a occhio nudo sono legate a una a una tale distanza così ravvicinata, a una quantità di centimetri o di millimetri addirittura, che l'occhio umano, alla fine bisogna fidarsi. Un conto è, tra virgolette, essere indignati, sottolineare quando gli arbitri sbagliano, o sottolineare in positivo quando gli arbitri fanno bene su degli episodi che sono chiari, nelle quali la possibilità di errore esiste. Ma su un episodio come quello di ieri, o sull'episodio del gol non gol di Udinese-Roma, che da un'immagine sembra assolutamente dentro, il pallone rimbalza dentro... Sì, e dall'altra i dubbi ci sono. Dovremmo creare anche una cultura dell'accettazione di una cosa che occhio nudo, se la vedi 10 volte, 5 volte pensi che è gol e 5 volte pensi che non è gol, e accettarla come una... Sì, ma con oggi abbiamo sepolto l'idea della moviola in campo, perché se nemmeno su una linea tracciata da un computer riusciamo a fidarci, ma di che cosa stiamo parlando? Poi preparate l'elmetto, perché vi leggo la risposta del Milan al comunicato della Juventus, però preparate l'elmetto, vi do ancora qualche secondo di tempo, anche tu Popi Bonnici, perché andiamo giù pesanti. Posso fare una domanda easy, visto che make it easy è il motto di tutto, a Popi Bonnici? Le schiere di registi indipendenti cui si richiama il Milan in questa guerra di oggi, ma oggi comunque i registi sono indipendenti rispetto alle squadre, cioè chiariamolo per bene, ma certo, perché la gente non l'ha ancora capito, ma da casa c'è chi continua a scrivere che la linea è taroccata, ci sono i comunisti a Sky, oppure Sky fa così perché la D'Amico sta con Buffon, c'è di tutto oggi, via SMS, vabbè. Popi, possiamo immaginare. Io voglio bene a tutti, però cioè spostiamo le squadre, mettiamole delle altre, così cioè rimescoliamo le carte. Le linee vengono tracciate indipendentemente da chi gioca, si fa sulla partita del Chelsea anziché sulla partita del Cagliari, che poco conta, ho usato 2C così almeno mi veniva più facile. I registi sono degli raccontano la partita, raccontano per immagini. Poi la stessa partita, io ho avuto occasione di ascoltarla da un commentatore, ascoltarla da un'altra, completamente diversa, vista in modo diverso. I registi sono indipendenti, sono per la maggioranza, direi quasi totalità, dei freelance, quindi cioè persone che lavorano in base a una chiamata. E che hanno interesse per primi ad evitare bucce di banana. Che per primi, io immagino, cioè il disappunto probabilmente ieri sera di Angelo, che è uno stimato assolutamente regista. Angelo Carosi. Angelo Carosi, chiedo scusa se è vero, per alcune volte devo dire nome e cognome, e che ieri sera probabilmente quando ha dato il primo replay con la camera dei 16 metri, che è quella che fa vedere principalmente i fuorigioco nella zona d'attacco perché è posizionata intorno ai 16 metri, probabilmente è andato molto velocemente su quella camera senza pensare che c'era però la camera principale, che era quella che aveva la miglior visione del gioco, certo. Visione che comunque poi è stata fatta vedere dopo, perché c'è più tempo e forse più capacità per poterlo fare, no? Quella con la linea taroccata. C'è un aspetto tecnico dell'episodio di ieri che è importante sottolineare, il fatto che il fuorigioco è molto alto, no? Viene praticamente quasi dalla parte, quasi alla sua linea di metà campo, e si vede sulla linea centrale, sulla camera principale. Infatti il paradosso è che ieri la telecamera dai 16 metri, che è quella che mediamente, quella che solitamente si utilizza per il fuorigioco, in realtà dice poco, e dice molto meglio invece la 1, no? Credo che sia proprio, cioè la 1, sì, sì, la 1 per definizione internazionale, non perché sì, parlate facile, però la telecamera, però se sbaglio, quella principale, cioè quella che sta a metà campo e che racconta le immagini larghe, quindi quella forse la più usata mediamente durante una partita. Ieri era un fuorigioco che appunto è avvenuto quasi all'altezza del centrocampo, e quindi la telecamera dei 16 metri non ci aiuta. Chiaro che non è che puoi avere una telecamera per ogni piccolo centimetro quadrato, perché saprai dove ci stava il fuorigioco. Quindi questa è un'ulteriore piccola sfortuna dell'episodio di ieri. Sì. Un'altra cosa da dire è che le immagini, i frame, vediamo se ho spiegato bene, ogni secondo è diviso in 24 frame. 25. Ti correggo. Frame, perdona, vedi che non ho spiegato bene. 25 frame a secondo. Quindi anche lì, tra un frame e l'altro, che è una distanza che il cervello umano e l'occhio umano non riesce a distinguere, però sulla situazione di fuorigioco, sulla situazione di palla dentro o palla fuori, può fare tutta la differenza del mondo. Allora, quale frame prendi? Il frame prima o il frame dopo? Non è sempre così facile. Questo perché alla fine dovremmo arrivare al concetto, che ribadisco, che ci sono delle situazioni che sono veramente troppo... Sì, che sono al limite. Pier, intanto salutiamo Popi Bonnici. Avete preparato l'elmetto, Popi? Io sono prontissimo. Attenzione, AC Milan, AC Milan, comunicato ufficiale, l'arroganza è cosa della Juventus che adesso non sa sfuggire, superflua una replica a chi è fatto così, bene invece che anch'essa condivida l'opportunità di rimettere a un dibattito e a una riforma il tema emerso in occasione della elaborazione grafica dell'episodio di Juventus-Milan, cioè quella linea era taroccata, eh? Ciao Popi, torniamo ciao, subito. Un abbraccio, ciao, ciao. Presto. Ma a parte che è difficilissimo, perché io dalla panchina avrei dato fuori gioco sinceramente, perché sembrava proprio avanti un metro. Ma non lo è. So, adesso rivedendola tante volte, però insomma, dare colpe, se è buono abbiamo sicuramente sbagliato. Tutti convocati. L'arroganza è cosa della Juventus che adesso non sa sfuggire, è superflua una replica a chi è fatto così. Bene invece che la Juventus condivida l'opportunità di rimettere a un dibattito e a una riforma il tema emerso in occasione delle elaborazioni grafiche dell'episodio di Juventus-Milan di ieri sera. Così ha risposto il Milan al lunghissimo comunicato della Juve, che rispondeva al comunicato del Milan che veniva dopo il tweet e dopo le parole del geometra Gagliani, così l'ha definito la Juventus. Carlo, ho l'impressione che domani la Juventus è andata giù dura, è andata giù pesantissima, convinta di aver ragione. Quello del Milan, al di là di questo accenno all'arroganza, è una risposta che dice: ah bene, adesso sappiamo che le elaborazioni grafiche, cioè quella linea lì è taroccata per Gagliani, poi che lo sia volontariamente o meno, cioè, Gagliani ha cambiato si conosce forse idea. Perfettamente i meccanismi attraverso cui vengono prodotte, confezionate e fatte vedere le partite, quindi la cosa che mi sorprende di più è stata questa presa di posizione, che era facilmente attaccabile da parte della Juventus, cosa che la Juventus ha fatto. Le regole sono quelle, i meccanismi sono quelli, li conosci perfettamente anche tu, e quindi mi è sembrato davvero o ha perso la testa o c'era qualcos'altro dietro che mi sfugge. Io mi auguro, lo dico agli amici a casa, che con l'intervento di Popi Bonnici almeno abbiate capito quali sono le regole, come funziona. Non continuate a scriverci quelle immagini, le fa la Juventus, per favore. Maurizio da Latina, Maurizio. Ah, buonasera. Senta, io sono un tifosissimo del Milan, però a me i Gagliani quando parla mi fa venire l'orticario, onestamente, mi indispettisce. Perché io invece delle immagini della rete, io vorrei, della linea, vorrei capire per quale prospettiva devo utilizzare per vedere non storti i piedi di quei due fenomeni che ha portato a Milanello, a Siena e Montari. Le rivincite con la Juventus ce le dobbiamo prendere sul campo, costruendo una squadra con criterio, non con 7.550 esterni d'attacco e 850.000 difensori. Non c'è un centrocampista. Allora questa energia che sta approfondendo e questa grinta che sta approfondendo il Milan in questa frangente, noi tifosi la vorremmo che venisse utilizzata in campagna acquisti, in fase di costruzione della squadra. Perché, sì, non possiamo continuare a vedere Montari e Sin, questo è il vero dramma del Milan. Sì. Oggi la Gazzetta, l'abbiamo citata prima, Pier, scriveva: scambiereste 8 Montari con un Pogba? Ma neanche 10, ma dai. No, ma questo è indiscutibile, questo è indiscutibile, e la lucidità del commento del nostro ascoltatore è perfetta, nel senso che è esattamente questo il punto del quale stiamo discutendo, del quale stiamo parlando. Non ci sono discussioni, il Milan deve pensare soprattutto a costruire, però i due piani sinceramente non è che uno esclude l'altra, cioè io credo che insomma se il Milan ha voluto fare questa polemica, che ripeto secondo me è una polemica soprattutto politica, per i rapporti che sono cambiati fra le due società, e la reazione della Juve lo dimostra, perché diciamo che la Juve mi sembra che con la sua reazione il passaggio quello su Infront e il suo ruolo, altro che fuori gioco di Tevez, francamente anche esagerata, insomma la reazione mi sembra ci sia anche una sproporzione tra azione e reazione. Comunque detto questo è evidente che anche non l'accusa di taroccare le immagini non è leggerissima, considerando che parliamo di una partita stravinta dalla Juve, è una cosa proprio, cioè è un duello rusticano, sì, si stanno menando per nulla o per tantissimo. Poi il futuro del Milan ovviamente non dipende da chi produce le immagini televisive o dai registi televisivi, ma semmai dai registi in mezzo al centrocampo, su questo non ci sono dubbi. Però ripeto, sono due discussioni diverse, cioè non è che siccome adesso il Milan è nettamente meno forte della Juve allora deve sospendere il dibattito su tutto il resto. Se vuole fare una polemica la fa, se ne assume le responsabilità, se ne assume ovviamente le ripercussioni, e fa parte del gioco. Se torniamo sul campo, potremmo parlare dei mille errori dei mille errori milanisti che hanno portato a quel gol in contropiede della Juventus a Torino. La partita la rimette in piedi, e secondo me è un Milan, quello di ieri, anche in qualche modo in crescita rispetto alle, ci voleva poco rispetto alle prestazioni di gennaio, però è un Milan secondo me ieri che ha lanciato in prospettiva futura dei segnali incoraggianti, si è mosso bene nel mercato di gennaio, sì. Si deve mettere a testa bassa a lavorare per migliorare. Sì, l'abbiamo detto, dalla sensazione di essere uscita migliorata. Mi fate salutare Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Ciao, buon ciao Fil. Olè! Merecido ganar porque han ganado el partido en todos los aspectos, la lucha, la calidad del juego, el segundo balón. Tengo que tomarme la responsabilidad por este partido. Creo que fue es el partido peor que ha jugado Real Madrid cuando yo estoy sentado en este banquillo. Questo Ancelotti dopo il 4-0 di ieri dell'Atletico Madrid sul Real, non neanche le righe per immaginare. Hanno parlato di righe, Filippo? No, diccelo. No, un fuorigioco, un rigore, qualcosa? No. Il problema è che non potevano parlare di niente, visto che non hanno fatto praticamente neanche un tiro in porta, c'era poco da discutere, insomma. È stata una prestazione scioccante. Un bagno, come titolano tanti giornali. Sì, un bagno. Voglio dire, si poteva pensare che Madrid fosse in difficoltà perché la difesa era ridicola. Però è chiaro, quando tu già hai una difesa molto rimediata, il tuo portiere al minuto 13 fa una papera così, se tu sei nacio, 25 anni e due presenze in Liga, è chiaro che ti viene un po', ti vengono le ginocchia molli. E Carvajal, che teoricamente era l'unico titolare di questa difesa, è responsabile o partecipa a tutti e quattro i gol degli avversari, dà un po' il tono, anche lo stesso Varane. No? Sì, non è stato impeccabile. Oggi era un po' la sua partita, cioè Varane deve sempre giocare di solito gioca con Ramos o Pepe, che sono due bei, diciamo, bei partner per giocare in difesa, e stavolta era lui che doveva essere quello grosso e aiutare Nacho, e invece è andato in un altro modo. Poi siccome Filippo, il calcio è materia liquida, come dice il nostro amico, sì. Pierre, giusto Pierre? Certo, noi discutiamo sulla linea di un computer, sì, Casillas, sì. Lo faccio sentire perché breve, ha discusso se abbia fatto o no una papera. ¿Cuál error? ¿Por qué ha sido un error? ¿Por qué? Eso lo dices tú desde fuera que no lo ves, yo desde dentro te puedo asegurar que no es así. Tradotto, io ho fatto un errore, lo dici tu che sei lì fuori, non io che gioco. Io ti assicuro che non è stato un errore, e va bene, è chiaro che aveva due uomini davanti, quello senz'altro, però insomma è un errore in piena regola, e lui lo sa, cioè il problema è che Casillas vive diciamo sulle uova da quando ha avuto lo scontro con Mourinho, e già ha fatto un errore gravissimo alla finale di Champions che quasi gli costa la Champions. Adesso si ripete, lui cerca di difendersi come può, però il problema vero, secondo me, cioè, oltre alla difesa e alle assenze, è che chi c'era veramente non è esistito. Abbiamo Bale, che è un grande decatleta, probabilmente può fare, non so, un 90 metri col giavellotto, un 2,25 col salto in alto, o magari un 9,99. Sì, però tu dici giocare a calcio è un'altra cosa. Esatto. Questa è antica battaglia di Filippo Maria Ricci. Convocati. Pier, eccolo. Ragionando intorno alla derrota del tuo amico Carletto Ancelotti, che ieri ho visto abbastanza depresso. Sì, ieri veramente il cefalogramma piatto, insomma, il Real non è sceso in campo, è abbastanza triste, anzi è molto triste sentire Casillas che discute, che prova a giustificarsi e dice che quello non è un errore, quello è un errore enorme, che di fatto ha spalancato le porte a una grande vittoria dell'Atletico, nettissima. Anche in Spagna ogni tanto, insomma, Filippo lo potrà confermare, fanno polemiche, non è un popolo da questo punto di vista così tranquillo, così sereno. No, sono latini come noi. Fa parte del gioco, la distanza tra noi e loro purtroppo è tecnica in questo momento, a livello di grandissime squadre, ma insomma non diamoci sempre la zappa sui piedi, le polemiche ci sono anche da loro. Ieri non ci sono state polemiche perché la vittoria è stata talmente netta, talmente clamorosa che chiudere. Per chiudere, Filippo, questa sera Athletic Bilbao Barcellona, l'impressione che questa Liga sarà un lunghissimo duello, o meglio in realtà l'Atletico Madrid è lì, non è lontano. Sì. Adesso sono venuto a Bilbao a vedere la partita, perché insomma il Barcellona, che qui non vince da 3 anni, è dai tempi di Guardiola, però se vince stasera va a un punto e c'ha poi il classico in casa al 21-22 marzo, e l'Atletico resta lì perché non molla, e quindi sì, insomma dovrebbe essere un campionato molto molto lungo. Cioè ieri, al di là di tutto, per il Madrid era una grande occasione, cioè se vincevano l'Atletico andava a meno 10, sì, chiudevano la partita con l'Atletico, insomma questa era la cosa più importante. E Cristiano Ronaldo, insomma, che gli succede, insomma questo è un altro dei grandi temi, insomma. E comunque ieri, adesso io a parte gli scherzi me la prendo poi con Bale, però quando tu vedi la squadra in difficoltà non puoi permetterti di non aiutare. Insomma ieri io faccio il paragone con Arda Turan è un giocatore di una tecnica sopraffina che finché era in Turchia probabilmente non era mai tornato indietro, c'era proprio la regola quella del basket, no? Che non puoi passare la palla indietro alla metà campo, lui non c'è mai tornato, adesso è uno che lavora un sacco con la squadra. Ha anche l'incentivo che in panchina ci sono Simeone e il Mono Burgos, e quindi se non torna ho l'impressione che in panca anche lui. Devi parlare col Mono e il Mono magari ti dà una botta in testa, però così ieri è mancato proprio questo, è mancata la reazione. Insomma, la cosa che preoccupa Carlo è questa, cioè perché la squadra è stata ok, le assenze, però chi c'era veramente poteva essere un'occasione, invece no. E niente, penso sono appena passati i commentatori, diciamo quelli che gli autori delle frasi che avete dei ispezioni di radio che avete passato prima, Carlos Martinez e Michael Robinson. Eccoli, quindi abbiamo anche gli autori del racconto, esatto, di Atletico Real di ieri sera. Grazie Filippo. Ciao Phil. A voi, ciao. Alla prossima, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid, Fabio da Milano. Fabio? Sì, pronto? Eccoci. Ma non sono corrispondente della Gazzetta dello Sport. No, però sei Fabio da Milano, se vuoi intervenire. Volevo solo dire che da tranista dalla nascita, purtroppo Galliani si è arrabbiato perché hanno fatto malissimo il fuorigioco. Se Zaccardo fosse stato in linea con l'altro del compagno di squadra, non ricordo il nome, che era davanti di 1,5 metri a Tevez, non saremmo qua a parlare di tutta questa storia. Quindi la linea non era taroccata per Fabio da Milano. La linea non è questione, la linea era sbagliata. C'era Zaccardo che non era in linea con il suo compagno. No, la linea di Sky intendo, quella linea bianca. Sky, secondo me, come tutte le linee che vengono fatte, che dobbiamo tenerci queste linee se vogliamo perlomeno capire un pochino di più come sono andate le cose. Però è andato fuori gioco Galliani, perché avendo avuto questa reazione su una cosa, un errore della propria squadra, evidentemente si è ricordato che non ha più la linea che aveva Baresi e compagnia. Esatto, è un'altra la linea che manca al Milan, sì, mio caro, esatto. È un'altra linea che manca al Milan, ma poi ripeto, quell'azione è stata condita da diversi errori del Milan, non solo da quello di Zaccardo, e il Milan ha preso a Torino sullo 0-0 un gol in contropiede della Juve con un passaggio. Più o meno da rimessa laterale. Grazie Fabio, Prego, ciao, mi fate sentire Mancini, perché stasera c'è Inter Palermo. Ci abbiamo ancora una competizione che deve iniziare, e quindi dove partiamo alla pari con gli altri, quindi magari tutte le cose in questo momento sono negative e vanno male, magari saranno positive più avanti, quindi quello che speriamo in questo senso, però il lavoro va continuato a fare, e se fossimo così deboli da cambiare le nostre strade perché abbiamo fatto 2 o 3 risultati negativi, questo sarebbe tutto sbagliato, cioè non vuol dire che abbiamo sbagliato tutto dal primo giorno, io a venire qua, loro a prendermi, tutto, quindi cioè se si fa un progetto si fa e si tira avanti, si va avanti e ci si crede sempre, e soprattutto nei momenti di difficoltà, se si pensa che sia quello giusto, io penso che sia quello giusto, ci vuole un po' più di tempo probabilmente e un po' più di sofferenza, però poi magari le cose, le vittorie saranno anche più belle. Che ti aspetti stasera dall'Inter, Pier? Beh, insomma, la possibilità concreta di rivedere almeno l'Inter di Napoli, non quella di Sassuolo, di Reggio Emilia, perché insomma A metà settimana l'Inter ha dato dei segnali di crescita indiscutibili al di là del palo, ma insomma ha giocato una partita onesta, compatta, al di là dell'errore finale, e quindi mi aspetto che riparta da lì. Mi ha molto colpito anche nei racconti che ho letto sui giornali la disperazione delle proprie di Mancini dopo il fischio finale, dopo quell'errore di Ranocchia, come il segno di un destino veramente cinico e baro in questo momento, che rende tutto complicato anche in quelle rare circostanze in cui l'Inter se la gioca bene, o comunque se la gioca discretamente, come è successo a Napoli. Non è facile, i numeri dicono che il Palermo ha perso solo una delle ultime 13 partite, 6 vittorie, 6 pareggi. Sì, non è l'avversario più semplice per chi è in crisi. Non è l'avversario più semplice. Non ti dico, sono molto casato, una bellissima partita secondo me, penso che è una partita veramente da tripla fra una squadra che potenzialmente secondo me ha qualcosa di più degli avversari, gioca in casa ma ha molta pressione addosso, e un'altra che però arriva con una serenità in questo momento enorme, e la sensazione, la voglia di continuare a stupire, insomma, sì, partita mente, che conta poco, leggera, e poi pochissimo per la classifica. Pier, ti devo salutare. Ciao, a domani. Noi siamo arrivati in fondo. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Pietro Lacorte, Valeria Bernardi in regia, Carlo Genta qui con me. Ciao. Questa puntata aveva una dedica. Ciao a tutti. C'è un gentile tecnico, il mitico Rudy, che è qui, qui accanto a me, che mi sta aggiustando il computer qui accanto, che non funziona. Ma passalo in onda. Ma che passi in onda, Rudy? Che cos'è che non va in questo computer? Dimmi, cos'è che non va, Rudy? Lo capiamo, Giuseppe. Stai cercando di capire questo computer? No, questo computer. Non diciamo le parolacce, io non le dico. Tu non le dici, le dico io, non ti preoccupare. Perché non funziona mai una mazza? Perché, amico mio? Perché tutto pieno di anelli qui, pieno di anelli. Grande. Altro che grande cacciatore anche lui, signor Rudy, il grande cacciatore pure lui, numero uno, Parenzo, tu non lo conosci, Rudy, siamo al top, siamo al top, donne che cascano ai suoi piedi. E adesso, 1, 2, 3, solo che non ci sei più, Fabio, a dire insieme a noi, Presidente, lei ha ragione. Seguici anche da lì, come sempre, coeso e molto positivo. Cribbio.